1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Siamo qui alle 7:19 minuti, cari ascoltatori, è la 134esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, può cominciare, è già cominciata per la verità. Allora saluto anche da Zurigo il nostro ascoltatore che via WhatsApp ci manda al 349-238-6666 il suo saluto, anzi il suo imperativo, e non saluti Zurigo. E va bene, salutiamo salutiamo anche Zurigo, così come il buongiorno da Polignano a Mare che ricambiamo. Oh Milan, hai anche tu WhatsApp? Sì, sì, sì, sì, ci siamo, ci siamo. Allora, oggi con Oscar Giannino parleremo di che cosa? Beh, sull'onda di quello che c'è, il terrorismo, i timori che ancora oggi sono raccontati dai giornali, l'idea di alcuni a dire basta fare affari con alcuni paesi compromessi o invischiati nel terrorismo, soprattutto i paesi come l'Arabia Saudita, il Qatar. Avremo ospite Giorgio Soriala, che è del Movimento 5 Stelle, avremo ospite Chicco Testa per parlare di questa tematica. Ebbene, saluto anche dalla Valtellina Giulia e Giampiero e andiamo a leggere i giornali. Siamo qui al lunedì 23 novembre, il titolo Il Sole 24 Ore apre sulla TASI, esce di scena con gli ultimi rincari. Per l'IMU gli aumenti maggiori su case, sfitte e capannoni, le ultime novità sulle tasse, sugli immobili, le vedremo più avanti con Mauro Meazza. Ora invece i titoli di tutti gli altri giornali dedicati alla paura che c'è a Bruxelles, se non il vero terrore. Una città blindata nel cuore dell'Europa. Corriere della Sera, paura e arresti a Bruxelles. Repubblica, Bruxelles, città sotto assedio. Per La Stampa, Bruxelles retata di terroristi. Il Giornale caccia l'uomo a Bruxelles, mentre Il Messaggero, assedio ai killer, dramma Bruxelles. Libero, vi spiego le armi segrete dell'ISIS, dal gas nervino all'antrace, l'intervista all'esperta di bioterrorismo Maria Rita Gismondo, che svela come possono colpire. Sul Fatto Quotidiano invece c'è un titolo che a me francamente fa un po' sorridere, perché dà un tocco di surreale a tutta questa vicenda, una vicenda in realtà drammatica. Sentite qui il titolo di Libero. Ovviamente c'è la ricerca il grande ricercato è questo Salah Abdeslam. Blitz e beffa, Salah fugge in BMW. Non lo so, io immaginare questo uomo braccato da tutta la polizia europea fuggire in BMW, non lo so, mi rende tutta questa vicenda davvero un po' surreale, cioè come sia possibile che sia così in fuga, così in macchina a fuggire e nessuno lo vede. D'altronde, come titola il Corriere della Sera, pagina 5, Salah è un fantasma, 60 segnalazioni di avvistamento, lo vedono tutti ma non si trova da nessuna parte. Puff, un fantasma. Comunque, a Bruxelles è davvero una città blindata e una situazione di panico totale. I mitra spianati nella capitale, blitz nella notte, 16 fermati. Questo è il titolo di pagina 2 del Corriere della Sera. E poi il reportage continua, pagina 3. Perquisite 19 case, Salah non c'era. Indiscrezioni sul terrorista, è a Liegi, in fuga su un'auto. Eccola qua. Sarebbe stato visto alle 19:30 a bordo di una BMW su una strada statale nei pressi di Liegi, ma sarebbe riuscito a fuggire un'altra volta, prendendo la E40 in direzione della Germania. Boh. Anche per questo forse il bilancio notturno della Procura federale di Bruxelles è laconico. Un breve comunicato di poche righe per dire che sono state perquisite 19 abitazioni, arrestate 16 persone, e durante un controllo in uno snack bar di Molenbeek una vettura si sarebbe lanciata a grande velocità verso i poliziotti che avrebbero aperto il fuoco, ferendo l'uomo al volante, poi arrestato nel centro della capitale. Leggo dalla cronaca di Marco Imarisio, a pagina 2-3 del Corriere della Sera, insomma Salah fugge, ma non si trova. Ovviamente tutti ricostruiscono anche la rete di questi terroristi e i legami con l'Italia, perché ci sono. Beh, intanto Abdeslam è passato a Bari, questo è abbastanza accertato ormai. Alla fine dello scorso luglio Abdeslam è passato dal Belgio, ha preso una macchina in affitto insieme a un compagno e è arrivato fino a Bari. Il 1 agosto ha preso il traghetto per Patrasso e lì ha utilizzato una carta di credito in tutto il viaggio. Non in Grecia invece, per 4 giorni queste due persone non usano la carta di credito. Forse sono ospiti di qualcuno, forse addirittura erano lì in Grecia per prendere ordine e pianificare la strage di Parigi. Questo si chiede nel lungo articolo Fiorenza Sarzanini a pagina 6 e 7. Certo, la rete dei terroristi in fuga, i legami con l'Italia sono anche accertati da questa carta di credito usata in Italia in questo viaggio dal Belgio a Bari e poi il traghetto preso Bari-Patrasso. È una pista che però è molto molto complicata, che porta un po' gli inquirenti in giro per tutta l'Europa, perché hanno viaggiato con la libertà europea tranquillamente quelli che poi hanno colpito a Parigi. Repubblica con Mauro Favale a pagina 4 fa sapere che i controlli dello 007 italiani si concentrano su decine di nomi, forse un centinaio, di cui oltre la metà sono già in carcere per la verità. Tante sono le persone oggi in Italia da considerare potenzialmente vicine alle posizioni del fondamentalismo islamico. Questo è quello che racconta Repubblica a pagina 4. Ma certo, si vive in questa perenne situazione di terrore, tanto che a Milano per esempio succede questo. A Milano era previsto questa sera un concerto all'Alcatraz, il concerto era dei Five Finger Death Punch, una band alternative metal californiana. Hanno dovuto alzare bandiera bianca, rinviato il concerto adatto a destinarsi all'Alcatraz. Tutto è partito sabato pomeriggio quando alcuni siti hanno rilanciato un messaggio diffuso da un gruppo ritenuto vicino al collettivo Anonymous a Parigi, in cui si faceva riferimento a una serie di eventi nel mirino dei terroristi: la festa del Cristo Re a Roma e nel resto del mondo 3 eventi a Parigi e anche appunto il concerto di Milano. Messaggio serio, secondo alcune autorevoli fonti di polizia, e dunque tutto sospeso. Viviamo un po' così, lo racconta Il Giorno. Musica metal nel mirino dell'ISIS, allarme a Milano, salta il concerto. C'è da dire che si vive un po' così nel terrore, anche di fronte ad allarmi magari non confermati, si preferisce per prudenza sospendere tutto questo. Dicevamo, noi parleremo anche di fare affari. Oggi il Fatto Quotidiano a pagina 6 e 7 a 2 pagine un'inchiesta di Salvatore Cannavò che racconta proprio il risico mondiale delle armi al califfato, quali sono i canali più utilizzati di questo fiume inesauribile di armamenti che si dirige verso la regione più infuocata del pianeta. Sono al centro l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, ma non solo, 5 paesi tengono il banco, i primi 5 esportatori di armi: Stati Uniti, Russia, Cina, Germania e Francia. Nell'ordine sono in grado di controllare il 74% del traffico globale di armi. I primi 5 importatori vedono saldamente l'India invece al primo posto con il 15% del totale, poi l'Arabia Saudita, la Cina, gli Emirati Arabi Uniti e il Pakistan. Questi sono i 5 paesi invece che ricevono più armi, più importatori di armi. Comunque tutti i canali su pagina 6 e 7 del Fatto Quotidiano, e questo è anche un tema che affronteremo, non solo le armi ma anche proprio il fare affari con questi, con paesi che vengono considerati compromessi. In tutto questo c'è forse un cambiamento di scena da parte di Obama. Obama che sta facendo il suo viaggio in Estremo Oriente, ha lasciato la Malesia e ha detto: distruggeremo l'ISIS. Ecco, questa frase, distruggeremo lo Stato Islamico, fa pensare che forse nella mente del presidente americano c'è un cambio di strategia. Li distruggeremo, li cacceremo dalle terre in cui si trovano, taglieremo le loro fonti di finanziamento e le linee di rifornimento, decapiteremo i loro vertici, smantelleremo le loro reti. Non ha dato dettagli su come tutto questo accadrà, ma il presidente americano, che è criticato anche per una politica diplomatica scrivere pubblica fin qui piuttosto fallimentare, beh, forse sta cambiando in qualche modo la strategia. Sia Repubblica con Alberto Flores d'Arcais, ma anche La Stampa con Paolo Mastrolilli racconta: distruggeremo l'ISIS, Obama cambia marcia per aiutare la Francia. Sarà questo il cambiamento di marcia? Chi lo sa? Intanto ci sono molte pagine sui giornali dedicate al racconto di come è morta Valeria Solesin. Domani ci saranno i funerali a Venezia. La Camera Ardente è stata aperta ieri con i genitori e anche il fidanzato di Valeria che erano lì ad accogliere tutti. Il fidanzato di Valeria, per la verità, era anche lì al Bataclan, racconta in poche frasi che sono raccolte dai giornali, in pratica, di essersi finto morto nel momento in cui sono arrivati i colpi. Uno di questi colpi ha colpito appunto la fidanzata Valeria lì a fianco e lui si è finto morto abbracciandola, si è salvato così e ha raccontato, però è morta di fatto per anche i soccorsi che non sono arrivati, è morta dissanguata mentre l'abbracciavo. Insomma, racconti anche drammatici, anche il papà Alberto che dice: un tormento non vedere mia figlia, ma questa tenerezza intorno ci sta aiutando. Tutti i giornali raccontano l'attesa per domani, poi i funerali. Ma siamo e lasciamo il tema terrorismo per iniziare a quello andare a vedere che cosa succede in Italia, a cominciare dall'articolo che mi fa tenere le mani sul microfono e a voi le mani sul volante, l'articolo che ci fa alzare più di tutti in questa giornata è l'articolo, il racconto, anche questo surreale, che Sara Martinenghi fa su Repubblica, pagina 22, del processo per l'astice. Il processo per l'astice. Ebbene sì, Sara Martinenghi racconta che un pescivendolo a Torino, Italia, è stato accusato di maltrattamenti su animali perché teneva 3 astici e 2 aragoste sul banco del mercato con gli elastici, una pratica diffusa ma vietata. E allora è passata da lì un'animalista convinta che lo ha mandato a processo e si è tenuto il processo. Il processo si è concluso con l'assoluzione del pescivendolo per la tenuità del fatto, ma l'intero iter giudiziario ha destato curiosità e anche la rabbia del giudice stesso. Il giudice, un magistrato onorario, che non ha potuto non far notare che questo processo ha coinvolto 4 agenti della municipale, ha allertato un veterinario dell'ASL, tutto per 5 crostacei destinati comunque alla vendita e alla cottura. Processo per l'astice, l'ira del giudice. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Alessandro Milan e il codeghin con la peara dell'informazione. E che bon che l'è. E che bon che l'è. Evviva, cari ascoltatori, siamo qui. A raccontare allora quello che succede in Italia. Beh, la notizia forse più interessante dal punto di vista dell'economia oggi sui giornali è il fatto che c'è stato un decreto varato dal governo che ha salvato di fatto 4 banche. Allora, quali sono queste banche? Cominciamo a dire questo: sono la Banca delle Marche, la Banca Popolare dell'Etruria, la Cassa di Risparmio di Ferrara e la Carichieti. Perché? Perché queste banche erano sull'orlo del fallimento. Quindi il governo ha varato questo decreto. Cosa significa in sostanza? Questo salvataggio è interamente a carico del sistema creditizio, costerà 3,6 miliardi di euro. In pratica questo decreto consente il pagamento differito delle imposte alle banche che interverranno per il salvataggio di questi 4 istituti. Dunque, questa mattina le 4 banche riapriranno dopo aver di fatto scorporato la parte malata. L'obiettivo poi del piano di salvataggio è vendere all'asta le nuove banche che nascono libere da crediti in sofferenza. Ci sono ovviamente molti articoli dedicati a questo. Stefania Tamburello sul Corriere della Sera racconta: il salvataggio è fatto, oggi le 4 banche in dissesto riapriranno i battenti con una nuova veste, senza perdite e un capitale ricostituito. L'operazione, conclusa in 48 ore dalla Banca d'Italia utilizzando le nuove regole europee, è stata varata con un decreto del Consiglio dei Ministri. A questo decreto, tra l'altro, fanno sapere tutti i giornali, non ha partecipato per altri impegni istituzionali Maria Elena Boschi, ministro per le riforme istituzionali. Certo, impegni che aveva, però non si può non notare, come fanno vari giornali, come fa per esempio Libero, che il papà di Maria Elena Boschi è dirigente di quella banca, di una delle quattro banche, la Banca Popolare dell'Etruria. E racconta ancora il Corriere: lo schema seguito prevede il trasferimento dei crediti difficili dei quattro istituti, pari a 8 miliardi complessivi svalutati a 1,5 miliardi, in un'unica bad bank e la costituzione di quattro nuove banche, bridge bank, cioè banche ponte, pulite dalle perdite e ricapitalizzate, a fornire le risorse necessarie, 1,7 miliardi per la copertura delle perdite, 1,8 per la ricapitalizzazione e 140 milioni per la bad bank, è il neonato fondo di risoluzione nazionale, la cui liquidità è stata anticipata dai tre maggiori gruppi italiani, vale a dire Unicredit, Intesa San Paolo e UBI. Le quattro banche salvate saranno sotto il controllo del fondo che è amministrato dall'unità di risoluzione della Banca d'Italia e ne assicurerà l'attività per cederle sul mercato appena possibile. Questo è ciò che tecnicamente avviene. Certo, è interessante quello che Alex Barbera racconta, cioè la storia in sintesi di queste banche: credito facile, peggio, concesso per progetti mai realizzati, carenze nei controlli interni, ostacolo alla vigilanza, buchi di bilancio nascosti agli azionisti, operazioni spericolate, perfino richieste di mazzette per concedere mutui. C'era di tutto in queste quattro storie nere di provincia che incrinano il mito del sistema sano. Per esempio, appunto, Alex Barbera sulla Stampa, pagina 11, racconta di Banca Marche, gestita per anni da un direttore generale senza freni, Massimo Bianconi, le sue storie di mala gestione degne di un romanzo, come quella dell'agricoltore di Urbino che ottiene il sì a un mutuo da 300.000 euro, ma solo dopo aver pagato una mazzetta del 5% a un intermediario. Ecco, questa è una delle storie che viene raccontata. Comunque, anche qui è interessante capire come due giornali orientati in modo diverso, cioè Libero e l'Unità, pongano la questione. Sentite qui: banche salve non pagano i cittadini, questo è il titolo dell'Unità a pagina 10, e invece Libero: Renzi salva quattro banche a spese nostre. Ecco, questo per dire come la chiarezza in Italia è sempre tutta a capire chi ha ragione. Il Corriere della Sera, anche a pagina 19, fa una sorta di domanda e risposta: chi paga il conto del salvataggio delle banche, cosa cambia per un risparmiatore che ha un conto corrente in una delle banche salvate? E la risposta la do subito: non cambia nulla, perché non è ancora in vigore la normativa europea del bail-in, che scatterà solo dal prossimo gennaio. Cosa cambia, insomma, per queste quattro banche, con queste quattro banche salvate? Tutti i dettagli li trovate sui vari giornali. Mentre legato a questo c'è un articolo, legato a questo perché si parla di soldi in qualche modo, c'è questo articolo di Marco Menduni sul Secolo XIX. Sapete che di recente c'è stata una sentenza a Cassazione, l'abbiamo detto, in cui è stata data la possibilità a un ricorrente, sostenuto da un avvocato, di poter cambiare le sue vecchie lire, anche se i termini sono scaduti. Ebbene, questo ha dato la spinta a pensare che tutti coloro che hanno ancora delle vecchie lire potrebbero avere diritto a cambiarle in euro. Ma quante sono queste lire in giro? Beh, Marco Menduni sul Secolo XIX racconta, pagina 8, che secondo una stima c'è un tesoro equivalente a 1,4 miliardi di euro, 1,4 miliardi di euro nei vostri cassetti, nei vostri materassi, nei vostri, cioè ci sono tante lire in giro. Sarà possibile convertire le banconote non cambiate? Chi lo sa? Questa sentenza della Corte Costituzionale in realtà non è la sentenza che dice ora tutti quelli che hanno le lire potranno cambiarle in euro. Bisogna valutare e fare approfondimenti, dice la Banca d'Italia. Probabilmente servirà una legge. Comunque mi ha molto colpito sapere che ci siano ancora nei cassetti degli italiani, magari trovati dai lasciti del nonno, uno che fa un trasloco e trova sotto il materasso, dentro la cassaforte, le vecchie lire, per un totale di 1,4 miliardi di euro. Questa è la stima. Io me ne accontenterei di 200 milioni di questi euro. Va bene, devo salutare. Mauro Meazza, sto picchiettando nervosamente il pugno sul banco come a scuola prima dell'interrogazione. Gonfia la rete, Meazza, gonfia la rete, gonfia la rete. Questo è il messaggio del nostro ascoltatore Meazza, via WhatsApp. Bene, dopo questo trionfale ingresso, il nostro metronomo Mauro Meazza, come sta? Buongiorno a tutti, buongiorno anche a tutti quelli che ci hanno scritto segnalandoci come regolano oramai la loro giornata sulla base della nostra chiacchierata mattutina. Esatto. La cosa mi lusinga davvero. Cosa stai guardando in televisione, Alessandro? Scusa, perché mi hanno detto che stavano mandando un programma interessante sullo schermo che hai in studio. Tipo? Non so. C'era Mancini. Allora mi immagino che programma sia. Ho girato. Poi però non ti distrarre, perché devi leggere sul Sole 24 Ore come ad esempio sono aumentati gli esborsi degli italiani per la TASI e per l'IMU. E se puoi far vedere, allora un attimo, lascia lo sguardo al telecamera, perché faccio vedere che tanto cosa. Sai già più o meno come è andata a finire, no? Sì. Se puoi mostrare l'infodata invece, che fa vedere appunto quanto in questi anni la TASI e l'IMU siano andate sempre a crescere, e cresceranno mediamente anche dell'11% per anche quest'ultimo appuntamento il 16 dicembre. Te lo sei segnato? Poi è tutto chiaro dall'infografica. Si vede molto bene nell'infografica, certo, però intanto tu segnati questo 16 dicembre. Oh, ti voglio dire, parliamo anche di legge di stabilità, naturalmente, e parliamo anche della classifica, ti dà fastidio questa parola classifica? È un po'. Delle domande per l'IDEE. Hai presente il ricometro, cioè l'indicatore della situazione economica equivalente? Ecco, sono calate drasticamente con l'applicazione delle nuove regole da quest'anno. Ma ti spiega tutto Valentina Melissa, poi c'è appunto una classifica, ti spiace, sulle 30 regioni, no, non sono 30 le regioni italiane, è vero? mi viene sto numero 30 e non capisco perché. Vi fermerete lì, ve lo ricorderete a lungo. Comunque invece 30 sarebbero i giorni regolamentari per il pagamento di una fattura, ma la nostra pubblica amministrazione sta rallentando di nuovo, te lo spiega bene Valeria Uva, è arrivata ai 100 giorni. Ci sarebbe molto altro, ma adesso, come dire, il momento di soddisfazione scudetto, ma è chiaro, ma è già vostro, tranquillo. Ti ringrazio della guffata, naturalmente so che voi scudetto all'Inter, una grandissima stagione, anzi ti dirò di più, aprirete addirittura un ciclo. Ti voglio dire che parliamo anche della legge di stabilità, che come sai questa settimana comincia il secondo giro. Nella fattispecie, ti piace la fattispecie? Nella fattispecie il bonus mobili, che andrà a raddoppiare il prossimo anno, quello per le giovani coppie e quell'altro standard, e poi anche il welfare in azienda. Molto altro, ma scusami, adesso devo andare a leggere anche l'esperto risponde e le pagine di norme e tributi, come sempre, con attenzione, cosa anche che perché anche certo, anche perché attenzione, caro Mauro, Luca da Torino ci scrive in questo momento che si alza tutte le mattine quando Meazza dice, quindi attenzione, hai il momento, anche una funzione di sveglia. Un bene alzato a Luca con il nostro abituale saluto. Traffico! Ma la libidine è qui, amore, la radio, il Milan e the pole position. See you later! Va bene, caro ascoltatore, allora parliamo un po' di politica italiana. Il Partito Democratico è un po' in ambascia per quello che sta succedendo a Napoli, dove Antonio Bassolino, già governatore della Campania, già sindaco di Napoli, ha detto «mi candido alle primarie». Apriti cielo, si è aperta una polemica. Bassolino rappresenta il passato per il Partito Democratico, che ha fatto sapere «non è il nostro candidato». E Bassolino si è arrabbiato. Ora, pagina 16 del Corriere della Sera, l'idea del PD è questa, racconta Maria Teresa Meli, quella di mettere una norma per cui chi è stato sindaco del Partito Democratico in una città non può ricandidarsi alle primarie. È una norma chiaramente anti Bassolino e, se volete, anche anti Ignazio Marino. Questa è enunciata come progetto dal Corriere della Sera, mentre su Repubblica Deborah Serracchiani lo annuncia proprio in un'intervista, intervistata da Tommaso Ciriaco, lei che è vicepresidente del PD, dice proprio questo: la proposta della segreteria, che sarà discussa nelle prossime settimane, prevede che chi è già stato sindaco non potrà candidarsi alle primarie. Varrebbe per tutti, anche per Renzi a Firenze, anche per Del Rio a Reggio Emilia. Certo, è solo un modo per dire che quando un'esperienza si è chiusa per davvero. Nulla di strano, Bassolino ha già dato. Risponde così Deborah Serracchiani, facendo capire che è un po' una norma che nasce adesso proprio per frenare le ambizioni di Bassolino, o, se volete, anche di Ignazio Marino, che non ha mai sciolto il dubbio: mi ricandiderò oppure no. In ogni caso, tornando sul Corriere della Sera, c'è l'ira di Antonio Bassolino. Marco De Marco la racconta a pagina 16. Perché quel comunicato del PD "non è il nostro candidato" davvero non è andato giù all'ex governatore della Campania. Che vuol dire "non è il nostro candidato"? Nostro di chi? Dice Bassolino. Io mi sono battuto per le primarie e ora sono candidato alle primarie. Cosa si intende con quel nostro? Nostro del partito? Non capisco. Allora, se il PD ha un suo candidato già bello e confezionato, che fa le primarie a fare? Mi sfugge la logica di tutto questo. Le primarie servono a indicare un candidato che ancora non c'è. E se loro dicono "non è il nostro candidato", vuol dire che c'è già un candidato? Insomma, un Bassolino molto arrabbiato, e questo è nel Partito Democratico. Mentre Berlusconi è andato ieri alla scuola della Lega, la scuola di formazione politica della Lega. Lo racconta Marco Cremonesi a pagina 17, Berlusconi show alla scuola leghista. Ha parlato anche di Sallusti, che era nostro ospite venerdì, ha detto "vedremo i sondaggi". E poi ha detto "vedrei un bene un governo guidato da Mario Draghi". Cioè, pensate, è andato lì alla scuola della Lega, dove vedono tutti alla Lega col fumo negli occhi l'Europa, Mario Draghi, eccetera, e ha detto "vorrei un governo guidato da Mario Draghi". Poi si è reso conto Berlusconi, ha detto "Mario Draghi o magari qualcun altro", ha corretto in tempo reale. Comunque, ha parlato un po' di tutto, ha detto anche "invidio il Movimento 5 Stelle perché ha molti giovani validi". Questo Silvio Berlusconi. Va bene, lasciamo la politica. A proposito di Roma, che abbiamo citato prima, mi incuriosisce quello che racconta pagina 16, La Stampa, con Francesco Maesano. Sapete che succede a Roma? Sapete che Marino aveva tolto le cosiddette lobby delle famiglie che avevano le bancarelle, eccetera? Torna la lobby delle bancarelle. Il mercatino della Befana, su 55 spazi a disposizione, 24 sono stati appaltati ai tredicine, famiglia definita dalla stampa potente lobby delle bancarelle nella capitale, cioè metà delle bancarelle alla solita lobby, alla solita famiglia che gestisce da anni le bancarelle. Evviva! Altre notizie di cronaca che mi hanno incuriosito. All'asta il Nobel di Quasimodo. Il figlio, 76enne, dice "sono al verde, vendo tutto, vendo anche il premio Nobel che è stato vinto da mio padre, il grande poeta Salvatore Quasimodo". Alessandro è un attore teatrale, racconta pagina 17 del Giorno: "I ben pensanti che mi critica sono gli stessi che poi venderebbero la propria madre, si facciano i beep loro. Di cosa vivo? Della mia arte, faccio recita al teatro, convegni, faccio il regista, ma è sempre più difficile farsi pagare. Insomma, i ben pensanti pensino ai fatti loro, per favore, io vendo tutto". All'asta il Nobel di Quasimodo, il figlio dice "sono al verde". Lo faccio vedere anche in diretta su Periscope al nostro Lorenzo Nespoli, che tiene in mano la telecamera. Telecamera, si fa per dire. Va bene, siamo alla carta costa. No, prima dico questa, su Repubblica mi ha incuriosito: attenzione sciatori, quest'anno è prevista una stangata se vi fate male e non avete l'assicurazione, pagherete i soccorsi. Lo racconta Repubblica: in molte località si pensa a questo, non ti fai l'assicurazione e ti fai male sugli sci, paghi i soccorsi se vengono a quando vengono a prenderti, ovviamente, se ti fai male. Stefano Parola lo racconta su Repubblica. Ma eccoci qui sul Fatto Quotidiano: la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali è questo, il catalogo Happy Days. Ebbene sì, il catalogo Happy Days, tutti i politici attuali paragonate ai personaggi di Happy Days: Verdini e Howard, la Finocchiaro e Marion, il sottosegretario Lotti e Ricci, la Boschi e Johnny, e poi c'è ovviamente Fonzi, Renzi, Alfano, Pozzi. Sunshine, goodbye rain, she's wearing my school ring on her chain, she's my steady, I'm her man, I'm gonna love her all I can. Ma chi se ne frega?